e siamo a 4 con il resto di 2, 44 morti. Ma tu puro, Luca, dove ci traccia un po' un metodo per far arrivare la mosca da te? Che qua bisogna trovare un metodo, via Ettore anche, non c'è problema. Via Ettore, ora mi trovo nel campo, adesso sto nel PL. Infatti io non mi costa niente, smonto, stacco il PL da Gigetto. Ciao Gianni! Ti faccio parlare con un muro, Gianni doppio nome. Ciao lì, Uia. Chissà come fa a vedere così la fangua. Tanti sì. Sono andato a pregare. Sì, c'è così scendi mai. Negativo. Dai, per pace, scendi mai tu, Bidu. Ma sa, ecco. Non mi ha del pane, ma. Quanto tempo l'ho fatto? fuse o alluminio? Anche io ho mangiato due poco fa. No, io li preferisco crudi, con goccio d'olio e un po' di sale. Ma già li mangio anche crudi, però li preferisco crudi. Pochettino di sale e vai. Ho fatto la pastetta e fritti, mamma mia, tu già buono. Comunque, sì, ma il ristretto rallenta parecchio la digestione. Ah, il mezzo, eh. No, mi sono pisciato, andiamo in bagno, ciao. Perché non ho troppo brio, non mi mangio roba carbonizzata, no? Ma ci metti la mangia così. Ma vabbè, prima era molto debole di stomaco, eh. Adesso grazie a Dio non c'è problema. Small. colpita, che lì ha lavorato un po', il chirurgo che ci ha lavorato, vabbè, ma di molti tutta la pulpita è una piccola, è tutta roba suia. No, no, che ci ha lavorato anche lì. L'unica che non ci ha lavorato, che sappia io ancora, è questa proprio legge qua, nella miscela musica. Lì ancora nelle voci non ci hanno lavorato. Vabbè, più o meno quasi tutte. Ma lei ha dichiarato che per il momento ancora non lo fa. Il miscela musica? Sì. Lui ancora non lo fa perché dice che sono in casa. registro. Sì. Tipo 10, 20 puntate. Via, via. E poi ha un file sempre, no? E come si chiama? Poi va in camera, no? Ci ha messo mezz'ora e mezza per attaccare quel baracchino. Appena prima così con la batteria attaccata. Comunque devo dire una cosa, che funziona meglio quello dell'altro. Quello che ho io. E allora? Ah, già funziona bene. Ma secondo me si sente meglio quello, Che passa è la modulazione? Questo cos'è, 48? No, questo è quello... quello 100, 1100. E anche la scuola andiamo bene lo stesso. Andiamo bene. Un po' passa la modulazione, ma andiamo bene. Chiara, chiara, pulita. Mi accorto che è bella pulita questa modulazione. Ti penso io un paio di giorni a tu va, mi copro le malacchino. Tu come parli col muro? Io non parlo. No. No, semmai è il giocattolino. Noi vogliamo bere. Noi buoni buoni diciamo per ci vogliono. Così non è problemi. So. Stiamo con un meccanismo dove sta per. Puro niente, di brutto burro. L'avvitatore già c'è. Ma ti do l'avvitatore e me lo facciamo di tutto. No, non tocco niente io. No. Adesso mi prendo quello che mi ha proposto Claudio. Quello è bello, Poi te l'ha detto io, dopo un uovo. C'è anche la scatola. Io non posso dire, come è il 2002? Qui c'è della sedusi come te, parlo senza aprire nulla. Punto vergine. Ma come la sarà a casa? Io c'ho presente quanto deve essere bello. Che fa? Ti posso dire? È come il mio, dai, più o meno, 5 bande, A, B, C, D, bande laterali, Roger Beep, il tastino dei mezzi canali, dei canali alfa, poi già sicuramente era anche il rosso metro corporato. Il doppio in banda, non capisco. cioè, dice, se la piazza è in macchina, nella Jeep, un baracchino, solo che non funge. Poi se con 747 ti aiuta. E dipende anche dall'antenna che c'hai. Ah, boh, non so che tipo di antenna. Già ne ho sentito qua, già ne ho più lume o no, l'acqua. Però se te cade al carro già arriva, la Puglia. Dipende dall'antenna sicuramente anche. Magari dovrebbe essere un'antenna più forte un po'. Ho visto quell'antenna che mi ha dato l'altarino, grazie, c'è molto, cioè molto, sì, non l'ha visto. Non lo facciamo toccare un'antenna mai? La stessa. Ah, quella usi. E allora, fa da un punto all'altro. Ma non faceva niente cacciare? Sì, la base magnetica. No, ma la macchina la metto nella sua basetta. Ma fatti, dietro, non c'è il vetro di dietro, devo toccarlo. Sì, il vetro di dietro, nella spalliera, diciamo. Quella fissa andrebbe meglio. Perché non devo fissi il coso, l'attacco? E perché non è mia la moto, ma infatti in macchina funziona molto meglio quell'antenna, Una tappa e fai! Una tappa e vedi un po' di agacciare da qualche parte. Prendi gli attacchi, mi credo quindi la 8. No, ora ho fatto la basetta alla grondina, no? Però non lo so, la devo controllare, non mi stavo uscendo. La devo controllare, l'ho messa lì adesso, Un attimino che c'ho il tempo, la controllo a vedere che cosa gli è successo. Dai, è meglio, dai, fa più massa e tutto. Problemi, questa è una parte magnetica, sì, funziona, ma non rende quanto rende quando è attaccata proprio alla moto, rende di più, E appunto io avevo preparato quella stampa perché infatti così fissa deve rendere di più, ma solamente c'è qualche cosa su quel cavo lì che è qualche interruzione, perché non come che fosse senza antenna. Adesso lo controllare, vediamo cosa è successo, perché no, niente, non usciva niente. Aspetta un attimo che poi c'è il batte. Cosa? E quello sardo che fa le battute lì. Ah, secondo te questo è sardo? Sardo si apre i denti. E tu? Secondo te questo è sardo? Sardo sì, si chiama Pantoni. Di Sassari, ecco. Oh, Lord, they're now... non si sente più. Tutto spento, stanotte spegniamo, aiuto. Ho dato tutto qua. Ciao. Spento tutto. Tutto spegnendo. Ah, ho trovato troppo questo buro io. Beh, com'è andata la giornata lavorativa? Ah, stamattina abbiamo fatto un po' di più, stasera di meno. Beh, ci vuole un po' di riposo. E no, io stasera già ho lavorato, ma la sorte. Stamattina non c'era quasi nulla, tutta la mattina, poi di colpo tutto l'ultimo momento. E poi voi avete un altro metodo di lavoro. Praticamente si lavora di più di noi, dai. Non so come lavorate voi, però noi lavoriamo solitamente in base al cliente, perlomeno io, sempre come arriva il cliente a che ora arriva. E se il cliente telefona presto, io mi gestisco tutto il lavoro, se telefona tardi è un casino perché si arriva tutto l'ultimo momento. Ah, pure da noi ci sono quei ritardatari, Se vogliono la bombola, cioè per esempio noi chiudiamo a luna, vogliono la bombola prima dell'una. Sì. Cioè non è che uno li finisce magari cucinando il pranzo così, può anche capitare, ed è scusabile, ma sono quelli proprio che lo farò metodicamente, no, queste cose. Ci sono visti che verranno di scorta, ne hanno due, o ci sono quelli che se la fanno finire tutte e due, o se lo prendono se la ordinano lo stesso, non ne frega niente. E noi ne abbiamo due lo stesso, ne hanno una in veranda di cucina e una proprio cucina, e d'estate ci utilizziamo quella di fuori, però la bombola c'è sempre. Già lo credo. Potesse magari fare i fritti e roba del genere, la fa fuori per un freddore in casa. Sai che c'è molta gente che ce l'ha così. Io l'ho fatto benino, l'ho messo le piastrelle, tutto quanto. L'ho fatto più che modo di cucina. Chiama. Io invece so di gente che praticamente ne ha due, cioè per non sporcarsi la cucina che è dentro in casa, che c'è, è tutta bella pulita e cose, prendere e cucinano fuori, non cucinano mai dentro, ma proprio cioè, raramente cucinano dentro, c'è gente così. Ma noi li utilizziamo molto spesso tutti e due quando facciamo le pizze, perché abbiamo due forni, no? Mettiamo una teglia in un forno e una teglia nell'altro, per non stare a aspettare cosa. Andiamo così tutti insieme. E li mettiamo tutti e due, abbiamo un elettrico e una gas. Invece c'è gente che ne ha due e quella di dentro casa la usa proprio raramente. E usa, c'è gente, per esempio c'è una cliente che ce l'ha, ha una dentro e una fuori. Cioè il cavolo con il freddo, con la cosa, se prende si mette a cucinare fuori. E dentro assolutamente no, cioè è proprio fissata. Però se c'è la cosa la devi usare anche, non la devi lasciare in giro. Beh, dopo si fronte che ci stai trattando. Io mi compro una cosa, me la devo godere, cioè non la devo lasciare così, perché sono soldi spesi in vano, e invece un bel di gente lo fa, sono fatti così. C'è gente che è fissata con la pulizia, con la cosa, mia moglie è sporca e pulisce, cosa quando si sporca di urli di casa la puliscimo la notte. Ma un cavallo lo utilizziamo molto spesso, però d'estate. E poi d'estate si può cucinare meglio, perché ho detto per chiedere la verità, piace anche a me, che piacerebbe anche a me cucinare funghi, alla cioè, un po' più sociabile la cosa, la veranda, dai, mi piacerebbe pure a me. Ehi, chi era avanti? Ma che Paolo stanco? No, era in bagno, era. E quindi ma sai che i carabini si sono sbattuti alla macchina di una mia collega, non lo so per cui canta di tirare tutto in barriata, stavano seguendo uno che non si era fermato allo stop. Mi senti Anto? E così che se fa tutta canta la macchina l'ha impacciato, cioè l'hanno impacciato lui. Ehi, ecco tu non vede barriera, l'ha preso colpo al collo. Certo, se è pompando, è uscita di culo e si è sbattuto un po'. Che culo! Ehi, ma adesso non so se erano con le sirene o no, perché se erano con le sirene la colpa è sua. Che si deve fare da parte. Se non avevano le sirene probabilmente la colpa è loro. Quale si è fatta? E io abito di barre da Rugud, come gli hanno dato il colpo di frusto. Gaffa, sì, sì. Era una collega tua, mi stavi dicendo, no? E ha detto, fa la malattia lunga. La pagheranno, cioè però i danni non si pagano mai, cioè, quando succedono quegli incidenti io c'è qualche cosa, mamma mia, non me lo voglio neanche ricordare. Tu con Pierpaolo di quando abbiamo tamponato al mercato? Che fa? Ero uscito da lavorare. No, no. Sai cosa c'è? Che ti pagano magari, no? L'assicurazione ti dai soldi, ti pagano e poi l'INPS si informa chi ha provocato l'incidente, devi pagare la malattia che ti ha fatto, te la scontano da qui su, lo sai? Non lo sapevo. Dunque, questi animali qua non ti pagano mai, mai come voi tu, non ti danno mai quei soldi che ti vogliono proprio realmente, cioè ti danno una miseria. Mi stava raccontando una signora del conduttore che l'hanno messa sotto in macchina, e nel passaggio pedonale è passata questa macchina da gazzigata, l'hanno operata tre volte, è stata in coma, operata tre volte la gamba e gli volevano dare 80 milioni e non li ha accettati. Detto che lei ne vuole il minimo 200 per tutto quello che ha sofferto. Io non credo, e questi qua fanno in fretta a parlare, cioè, ma i danni delle persone loro non lo sanno che cosa è. Ha detto che è in ballo 3 anni con questo ginocchio qua, che si è fratturato, gli hanno messo ferro dentro, l'hanno operata 2-3 volte nel ballo. E mi ha detto che anzi adesso mi sto camminando, dice, però prima manco camminavo. Povera Sagia. Questi qua non ti pagano mai, mai. Danno sempre quello che vogliono loro. Se ti fai male per 200 euro, sei da denni 40. Non sei così. Anche la macchina che è la macchina, cioè, non ti danno mai il danno reale. Specialmente se la macchina è vecchia, dicono non si vale nulla. Ah, io ho ricevuto che sia sempre una cosa sbagliata, perché se per esempio faccio un panalino e costa 200 euro, 200 euro li devi dare, cioè tu non li puoi dare 60. perché quando uno va a comprare quel pezzo lì non ti guarda l'infarto. Però che non vado se smutti da una macchina al ferro vecchio. Dico, cioè se ti tampono, ti spacciano la macchina. E tu non puoi dare quanto vuoi tu, tu devi dare il danno reale, se non esiste. È vero, infatti. Che prima di fare la buona, prima che la colpisci, dopo ti sbatte tutto per dire e mi faccia di rubare, quindi me lo devi pagare per buona. Io ho fatto un esempio di un faro, ma faccio anche un altro esempio, cioè che si faccia completamente la macchina, bene chi dice, dopo la macchina è vecchia, cosa ti diamo così, colante, felice. La macchina tu hai fatto quel danno e quel danno devi pagare. L'assicurazione volete pagarti, è un bel di pe. Vabbè, non sono più uguali. Ci sono quelli che cercano di tirare la cinghia a suo mulino, praticamente l'acqua a suo mulino. Praticamente quando ho avuto l'incidente io con l'autore si è preso qui, mi ha tagliato la strada, io ho frenato però non ce l'ho fatta, l'ho preso dietro, non c'è fatto nulla perché l'ho presa la gomma, ma io lo danno che mangio quanto baraurti, faro, tutto quanto mangio faccia, ma mentre mi faceva il giro tutto quanto, però non si ricordava il numero di pulizia, non c'aveva la pulizia né niente, e ti ho detto dammi l'indirizzo a casa tua il telefono. Poi mi ha telefonato la madre dicendo che la macchina era la sua, che il figlio andava a piano in macchina, la signora si prepari intanto, perché io sto passando a prendermi, se non vado all'avvocato, e lui si è fatto. Mi ha scritto l'Inps, per abbinare tutto l'Inps. Oltre che si risibiglia, neppure un ente ne vuole molto di più. Ehi, ehi. L'Ips mi ha mandato un modello da compilare, io l'ho compilato, io l'ho rispedito, truccatamente, ma di bruttino. Siamo fregati, sì. C'è qualcuno che sta facendo il pipì? Chi è che vuole entrare? Avanti. Io no. Anco io. Ogni tanto ci sente qualcuno. Ma con chi è che stai parlando? Ne do più rum. Con chi? Gianni. Se lo sento. Ma non lo sentiamo, mi arriva forte forte qua. Come ti non mi intendi, Pierpa? Se lo sento, eh. Ma che qualche tu, qualche difetto già. Prova a mollare. Sei tu. Io so. Affa, c'è qualche difetto, eh? Ah, mi senti a me? Sì, sì, a sentirti ti sento perfettamente, cioè quando muore la porta si fa pipì. Sì, ma lo fa due volte. La prima volta non si sente quel pipì. Sì che senti. Adesso è una volta solo, eh. Ma adesso non ci dovrebbe essere. Cioè. E poi il bip non c'entra niente col fatto di ascoltarmi, cosa c'entra? Vabbè, il problema non c'entra niente. Ma come mai non ti ascolta? Non è l'antenna attaccata. Strano. Ricordo, stavo parlando di questi qua, di assicurare. Io ti sento Pierpa, ti sento benissimo. Gianni. Eia. A tu, ma mi sente lui? Ah, ma che ti sente? Prova a guardare. Prova a guardare il Refi Game a vedere. A parlare già. Prova uno, due, tre. Beh, non intendi. Un attimo, ma è forte il segnale, forte. girato il tutto stazionale in 1.1, la potenza esce normale. Ho capito, Ah, metterci il capo grosso. Ma tu cosa c'hai? Per 58 RIU. AU. AU c'hai. È strano però che... No, non me l'ha fatto anche una volta, non riuscivo a sentire, quando lo sentivo sotto il... Ma mio pensiero, che cavolo, per me tuo figlio ce ne pensa con quel filo lì e c'è bene, boh, è strano, tanta acqua sicuramente o condensa. Allora, io mi accorgo che, per esempio, come ieri mi ha detto lui che sta fissando a un certo punto, quando attacco portante con l'altra antenna, dopo quando attacco l'altra PL della, di questa antenna, mi fa sempre così. E non lo so, ogni idea che ne cavo le soldi, ci rimangono dentro delle, come si chiama, adesso non mi ricordo. Questo vuoi usare quello rigido, quello ben duro? Io voglio provare perché in passato non me ne dava così problemi, cioè dicevo, è sempre un problema. Comunque, in realtà, ma ci sono, cosa devo fare, qualche stage? No! Qualche stage devono fare? Che stage? No, mi stavo addormentando. Sto pensando agli stage. Vabbè, vai, io ti lascio perché devo fare una cosa urgente, urgente. Ti lascio, ci risentiamo, là. E io vabbè, per faccia, ciao. Avanti a te. Che cazzo, stavo fumando solo. Anche io stavo pensando di mettere l'RG8. Ma è la stessa cosa. Se deve entrare l'umidità, quell'antenna non è protetta sotto. Bisognerebbe, secondo me, passargli una bella passata di vulcanizzatore, la mettere la vasellina, poi una passata di vulcanizzatore, vedrà che non te lo fa più. Gli ho messo un'altra cosa, gli ho messo. Cos'è perché fa doppio eco? Perché è doppio bico? Perché gli ho messo l'eco. Ah, ecco. Oppure non lo trovo l'effettuale. Boh. Non lo so farlo, no. Ma direttamente dal paracchino l'ho messo. Ehi. Da Mike si può mettere, un po' letto. No, negativo. Grazie. Però dicono che è migliore il capo grosso. Ma... Sì, diciamo che come resistenza ne ha di più. Ho fatto un fisso, dai, diciamo, perché lo devi usare così. Non è scala. È brutto. Ma se ne scala troppo. Via. Hola? No, forse perché ero troppo vicino. Ma meno però. Passerà un attimino che metto le cuffie, come adesso già adesso è perfetto, e già anche perché c'era proprio più vicino, sono stato a fumarmi la sigaretta, c'era proprio più vicino, non so, ce l'avevi ribassi. Sentiamo domani, eh? Buonanotte. Buonanotte.